Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Che la Juve facesse sul serio lo sapevamo, che faccia molto sul serio lo sappiamo dopo gli ultimi quattro giorni, dopo quei quattro punti raccolti in trasferta sul campo della Lazio e del Napoli, dove è stata brava a non mollare da una parte, ma anche a sfruttare dall'altra parte gli errori altrui notevoli. Adesso il Napoli, staccato di 9 punti dalla Juve e di 7 dal Milan, non dico possa mettersi il cuore in pace, ma insomma quasi. In ogni caso sarebbe chiamata una rimonta di cui attualmente non sembra accreditabile, o meglio lo è dal punto di vista della forza di orientare le partite a proprio vantaggio, ma poi evidentemente non ne saperle gestire. Mentre la Juventus, al di là di avere un punto in più sul Milan che di vantaggio che non guasta mai, insomma la Juventus adesso è convinta in maniera definitiva e certamente diventa un po' più difficile nascondersi. Questo sarà l'argomento portante della seconda parte, direi, di questa puntata, perché ieri abbiamo rinviato per una buona causa, no, per una buona ragione, causa non tanto, per una buona ragione l'appuntamento con il calcio internazionale, che è ricco di spunti e di curiosità. Tra poco lo riprendiamo, non prima di aver sentito almeno un paio di commenti al turno di recupero di ieri sera, cominciando da Pandev, che era un po' l'anello debole della catena d'attacco napoletana, visto che gli toccava rimpiazzare Cavani. E invece Pandev la sua parte l'ha fatta fino in fondo, peccato che non lo abbiano seguito alcuni dei suoi compagni del Napoli. Peccato, però abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, poi secondo tempo abbiamo preso subito gol, però siamo andati in vantaggio 3-1. Sinceramente pensavo che la partita è finita, però Juve ha creduto fino alla fine e ha portato questo punto. Peccato, perché abbiamo giocato benissimo e mi dispiace tanto. La fiducia è importante, poi mi mancava tanto anche da ultimo anno a Inter, ho giocato poco, sono venuto qua non 100%, ho avuto questo infortunio, ho lavorato tanto, ho creduto in me e mi hanno aiutato tutti qua a Napoli, li devo ringraziare veramente di cuore. Peccato che quelli due gol non sono bastati per vincere la partita stasera. Beh, questo sinceramente è grave, perché insomma il vantaggio un vantaggio di 2-0 va difeso, ma a maggior ragione va difeso un vantaggio di 3-1 a 20 minuti dalla fine. Cioè la Juventus è stata brava in avvio di ripresa a riaprire la partita, ma a quel punto se arriva il terzo gol di nuovo di Pandev e la richiudi, beh insomma a 20 minuti dalla fine non ti puoi più far raggiungere, se hai le ambizioni che giustamente il Napoli ha. Il pareggio l'ha firmato Pepe, che mi pare sia alla terza giornata consecutiva in cui va in gol, un'azione fantastica addirittura, poi con una rifinitura involontaria finale di un avversario, quindi anche fortunata, ma certamente molto meritoria. Sentiamo il commento di Pepe. Sappiamo com'è il San Paolo, sempre uno stadio importante, un pubblico importante. Questa è la dimostrazione che la Juve non molla mai, non ha fatto un primo tempo all'altezza del nome della Juve. Poi nel secondo tempo è entrata molto bene in partita, ha fatto il 2-1, ha rischiato di pareggiare, ha preso il 3-1, ha pareggiato 3-3, ha rischiato di vincere la partita. Questo è complimenti che vanno al gruppo e a tutta la squadra. Una squadra che vuole continuare a far bene come sta facendo, però la strada è lunga, siamo alla 12ª giornata, ci stiamo togliendo qualche piccola soddisfazione, ma per toglierci quelle grandi ci vuole ancora tanto tempo. Beh, insomma, chiama le piccole. Calcio internazionale, vi dicevo, e quindi l'appuntamento con Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Più tardi, l'ho già detto e lo ripeto, torneremo su Napoli-Juve, sui vostri commenti, sui vostri interventi. Dunque, io partirei da ieri sera, perché si è giocato anche su altri campi, si è giocato una partita di campionato a Barcellona. E c'è stata una furbata di Piqué che ho l'impressione che rischi di pagare più caro del previsto. Risulta? Sì, risulta soprattutto da parte della stampa di Madrid, e quindi magari un po' più vicina al Real, quindi Marca e AS, mentre invece Mundo Deportivo sottolinea che Piqué prenderà una sola giornata. Per chi non lo sapesse, ieri Piqué, che era in diffida, si è fatto ammonire con quel solito modo, purtroppo onestamente non è la prima volta. No, molto spagnolo, va detto, molto esatto. Spagnolo, e io sono... Non posso essere sospettato di avercela un calcio spagnolo, tu nemmeno, però questo è veramente sgradevole. Esatto. Esatto, quindi è andato a cercarsi un'ammonizione sul 4-0 ritardando apposta, tra l'altro con i sorrisi sia da parte del pubblico, che io onestamente, cioè un passo avanti lo faremo quando il pubblico davanti a una roba del genere fischierà. Ecco, se un giorno un giocatore e il pubblico della propria squadra fischierà un atteggiamento del genere, io credo che sarà una bella giornata per lo sport. Detto questo, Piqué si è preso la sua ammonizione, adesso se il giudice sportivo non troverà traccia sul referto dell'arbitro di comportamento antisportivo, ma dal ghigno dell'arbitro, io su questa cosa non scommetterei, si prenderà una giornata, salterà il Levante e sarà nuovamente a disposizione contro il Real Madrid. Io faccio una piccolissima riflessione, cioè se vuoi evitarti la possibilità di essere squalificato contro il Real, cioè se vuoi evitarti un giallo contro il Levante, e non giocare con il Levante, certo. Tanto se ti squalificano non giochi e non ti esponi a una figura onestamente ridicola, e per carità, poi adesso tutti dicono chissà cosa dirà Mourinho, ecco, Mourinho sa di cosa parla perché l'anno scorso ne fece ammonire due, Casillas e Sergio Ramos, quasi teleguidando. No, non solo, con un paio di aggravanti. Uno era in Coppa e quindi comunque la ribalta internazionale. Uno era in Coppa e quindi la ribalta internazionale è sempre più. Sempre più platea, insomma c'è una visibilità superiore ed ancora più grave. La seconda è che mandò addirittura il portiere di riserva, no? Ad avvisare questi due che dovevano fare la furbata, farsi avvisare. Piqué l'ha fatto in proprio, ma tu hai ragione, hai detto come un libro stampato, cioè non giocasse contro il Levante oppure levasse il piede contro il Levante, non lo so, esatto, però non fare di queste figure. Trova un modo filino più virile di farti ammonire, non lo so, però davvero se vuoi giocare con Real Madrid e con Levante te ne stai a casa tua, così non viene ammonito e ti fai la tua partita con Real Madrid. Adesso lui rischia di prendersi due giornate, di non farsi neanche quella con Real, ma soprattutto si è esposto a una figura di antisportività e che io credo non farà bene all'immagine generale di Piqué. Hai detto bene tu prima, è una cosa molto spagnola, effettivamente sì. Gli spagnoli hanno questa abitudine. Sgradevole, veramente molto molto sgradevole. Dunque, in Inghilterra invece si è giocata la Carling, mi pare. Sì, la Carling. E il Chelsea, sbaglio, sono 4 sconfitte su 7 nelle ultime 7 partite? Sì, ma tra l'altro... Ah. Ovviamente non sbagli, ma tra l'altro è l'ennesima sconfitta in una partita importante, cioè Villas-Boas alla fine i punti che ha fatto li ha fatti quasi tutti con i piccoli, a Stamford Bridge ha perso un sacco di partite e tra l'altro anche con punteggi importanti. Io onestamente ieri ho visto una squadra abbastanza allo sbando, ho visto una squadra impaurita, ho visto una squadra che sta prendendo la faccia di Torres, cioè la faccia della paura. E quindi io sinceramente non scommetterei tantissimo sul fatto che Villas-Boas, visto che stiamo andando vicini a Natale, possa essere sulla panchina del Chelsea fino a fine anno, perché onestamente la squadra mi sembra totalmente in preda al panico. In difesa David Luiz e Alex ieri ne hanno combinate di ogni, ripeto, mi sembra una squadra totalmente allo sbando, è una squadra che ha un sacco di punti di distacco dal Manchester City in campionato, per carità. Nulla è perduto e le rimonte possono sempre starci, però onestamente anche ieri con coloro che giocano un po' meno e che avevano la possibilità di guadagnarsi qualche minuto poi per le partite più importanti hanno balbettato, e questa è la dimostrazione chiara che probabilmente allenatore e squadra parlano due lingue diverse, e quindi la missione di Villas-Boas per il momento è fallimentare. Qualche minuto ancora in compagnia di Fabio Tavelli prima di lasciarlo tornare in diretta a Sky Sport 24. Possiamo contare ancora su qualche minutino? Sì, tranquillamente. Bene, sì. Allora, pochi in ogni caso. Dunque, due squadre in crisi. Allora, in crisi, essendo secondo in classifica, è un paradosso, evidentemente. Però è anche vero che sia il Bayern in Germania che il Paris Saint-Germain in Francia sembravano avere, non dico ucciso, ma insomma, molto orientato il campionato. E mo stanno combinate male tutte e due. Sì, onestamente con mia, ma credo anche tua, grandissima sorpresa, perché sicuro. Soprattutto il Bayern, che è una squadra collaudata, è una squadra di una certa caratura e ha una società strutturata per saper gestire anche queste situazioni, sinceramente non mi aspettavo che rimontasse. La spiegazione tattica è l'assenza di Schweinsteiger, ma io credo che non sia solo quello, perché d'accordo che le coppie di centrali al centrocampo che abbiamo visto nelle ultime settimane hanno fatto un po' acqua, è evidente che la difesa, che non è una non è tra le prime 5 difese d'Europa, secondo me, come, come valore assoluto dei, dei protagonisti, evidentemente mal protetta si espone anche a situazioni del genere, perché il Bayern di Monaco ha perso la partita contro il Borussia Dortmund, ha perso una partita in casa la scorsa settimana, potrebbe anche tornare in vetta alla classifica se in questo fine settimana batterà il Werder Bremen e sfrutterà magari un eventuale pareggio tra il Borussia Mönchengladbach e il Borussia Dortmund. Ma detto questo, la flessione a livello di gioco soprattutto è evidente, adesso qualche gol lo prende, prima non ne prendeva, quindi c'è stata questa differenza. I critici di Robben puntano il dito contro di lui, ma non è del tutto vero, perché sabato comunque Robben non ha giocato la partita, ha fatto 90 minuti di panchina. Io credo sia una flessione che ci può stare, proprio perché il Bayern di Monaco forse aveva fatto anche fin troppo nei primi 3 mesi di campionato. Stupisce moltissimo, credo, anche la flessione del Paris Saint-Germain, che anche qua insomma, sembrava pronta per una cavalcata inarrestabile. Il Montpellier non solo ha tenuto, ma adesso è anche andato avanti, e la squadra ha preso degli schiaffi veri contro il Marsiglia, che è sempre un cliente difficile, soprattutto quando gioca in casa. Però diciamo che l'OM ha giocato una partita degna del campionato scorso, o comunque delle sue prestazioni migliori, solo con il Paris Saint-Germain. Cioè è una squadra che anche in Champions League ha palesato delle difficoltà chiare. Evidentemente in questo momento la situazione al Paris Saint-Germain è complicata. Io credo sia anche complicata dal fatto che filtrano fin troppe voci di mercato, cioè da Beckham e anche la posizione dell'allenatore con Boiré non è mai solidissima, nonostante il primo posto in classifica. Io penso che ogni tanto queste voci possano anche dare un filino fastidio, e il riverbero sulla classifica c'è stato immediatamente, anche perché poi dietro sta risalendo anche il Lione, e quindi adesso il Paris Saint-Germain deve riprendere a marciare. Non c'è dubbio. E allora potremmo forse chiudere questo appuntamento di oggi con, vabbè, magari poi ci segnali le partite principali del weekend, già che ci siamo, però trovo particolarmente antipatica, ma anche dolorosa questa rottura tra Cruyff e Van Gaal all'Ajax, perché a modo loro, certo, ha fatto più Cruyff per la storia dell'Ajax, certamente, di Van Gaal, ma insomma sono pur sempre due icone, no, di questa società. Ora, che la storia brevissimamente è che Cruyff si è opposto all'assunzione dell'ex tecnico del Bayern come direttore generale, però al di là di quelli che possono essere i loro rapporti personali, che evidentemente sono pessimi, è sempre un peccato quando succedono cose di questo genere tra personaggi di quel livello. Ma non c'è dubbio anche sul fatto che Johan Cruyff abbia avuto un impatto diverso, perché è stato anche uno dei più grandi giocatori del mondo. Però io penso che ruggini derivino da un'autobiografia nella quale uno non parlava benissimo dell'altro. Ma anche fosse solo questo, credo che un filino di agreement potesse esserci. È evidente che forse esiste anche qualcosa di più e che rende intollerabile la convivenza. Van Gaal se l'è cavata dicendo un "decideranno gli azionisti", che mi sembra sì, la dichiarazione di quello che ha vinto da questo punto di vista, sì, no? Perché sì, è evidente che poi dei due sarà Johan Cruyff a essere sacrificato. Penso anche che forse Cruyff il meglio di sé per l'Ajax l'abbia dato in passato, certo. Questo però non autorizza una piazzata così diciamo non degna dello stile dell'Ajax e non degna della carriera dei due, che però comunque sono tutte e due nella parte finale, no, di quello che possono dare al calcio. Perciò anche Van Gaal credo che il meglio forse l'abbia già dato, Segnalo a chi è a casa, ci sta ascoltando da casa oppure dall'ufficio e ha un televisore a portata, che può continuare ad ascoltare e magari anche a vedere Fabio Tavelli tra pochi minuti su Sky Sport 24. Grazie lì, Fabio. Però non dico la mia, è una cosa diversa. È un po' diverso, vabbè, comunque può continuare a seguirti. Un abbraccio a tutti, ciao. Grazie Fabio. Ciao. Gentile Garanzini, scrive Mirko da Bologna, mi sembra, gentile sì, la voce oggi è penosa, però insomma i malanni di stagione esistono. Mi saprebbe dire se ieri sera Pirlo è stato ammonito, perché c'è discordanza tra fonti ed era diffidato. Non solo è stato ammonito Mirko, ma è stato già anche squalificato dal giudice sportivo e salterà sabato la partita con il Cesena. Lorenzo ha chiamato da Catania, buongiorno. Buongiorno. Dica. Con riferimento appunto alla partita di ieri sera, volevo chiedere a lei cosa ne pensa del fuorigioco di Amsic, che era chiaro la partenza del calcio di punizione, Amsic era in chiara posizione di fuorigioco. Come mai non è stato, dico, criticato da tutta la critica delle varie televisioni? È stato quasi quasi messo da parte questo caso, e qualcuno forse ha detto è stato il colpo di successivamente in gioco lo stesso Amsic nella prosecuzione. No. Io dico che questo è veramente una cosa squallida di voler scongiurare le cose. La congiura, Lorenzo, non ho idea, non ho presente quell'azione, non ce l'ho proprio presente, chiedo scusa, ma in ogni caso, voglio dire, lei avrà presente dei telecronisti, no? Certamente, come anche capita in altri casi, lei ha detto che la stampa, perfetto, allora, se cercasse i telecronisti o cosa c'entra, io sinceramente non c'entro, io quello che posso dirle è che la palla di Lavezzi non andava ad Amsic, cioè non era diretta ad Amsic era in fuorigioco. Io invece di prendermela con i cronisti, i telecronisti, la stampa internazionale, non so, ancora un po' e arriviamo al complotto demo giudaico massonico, Pluto giudaico, io me la prenderei con questa accidente di regola del fuorigioco e la sua libera interpretazione, che non è colpa dei telecronisti ma è colpa semmai della FIFA, è colpa degli organi. Se si decidesse una volta per tutte che quando parte un pallone, soprattutto un pallone da calcio piazzato, cioè a situazione di palla ferma, e c'è anche solo un giocatore in fuorigioco, che la palla vada a lui o non vada a lui, l'assistente sventola e l'azione si ferma. Sarebbe un modo di semplificare. Invece in questi anni è vero che il calcio è diventato un po' più spettacolare e soprattutto più prolifico grazie a questi equivoci, grazie al questo è fuorigioco ma non è la palla, non va a lui, eccetera eccetera, ma è anche vero che l'emicrania è sempre più è sempre più in agguato. Dopodiché ci sono i complottardi come lei che si alimentano e si abbeverano di queste non errori, di queste libere interpretazioni di assistenti per sollevare appunto ipotesi di danneggiamenti o congiure varie. Mauro Modena, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, volevo fare due considerazioni sulla partita di ieri sera, sulla ripetizione del rigore. Dobbiamo un po' metterci tutti d'accordo, perché o si vogliono fare le cose, come dire, che quando entrano i giocatori in aria non va bene, quando trovi un arbitro che lo fa ripetere, anche Messi l'ha ripetuto contro il Milan e l'ha segnato due volte, quindi la colpa non è di Tagliavento ma al massimo di Amsic. E la seconda considerazione è un po' più come dire romantica, perché mi fa piacere ritrovare il Borussia Mönchengladbach in testa alla classifica, perché da bambino impazzivo per René Simonsen, la famosa alla destra del Borussia. Magari anche Bonhoff e qualche altro gran giocatore che c'era in quella squadra. Io non sono mica tanto d'accordo con lei però sul calcio di rigore. Messi è vero, l'ha segnato due volte e Amsic no, però io parto sempre dal presupposto che se un arbitro fa ripetere un rigore è perché c'ha la tentazione di fare fenomeno in quel momento lì, perché in realtà proviamo a esaminare l'azione di ieri sera. Che vantaggio trae Amsic o il Napoli dal fatto che questo rigore sia finito in porta? Cioè Amsic nel momento in cui batte non ha certamente gli occhi di dietro, per cui non vede se stanno entrando in area giocatori del Napoli o avversari, non mi pare, no? Che danno ne riporta il portiere, e cioè Buffon? Nessuno. Buffon in quell'istante sta guardando il pallone ed eventualmente, anzi senza eventualmente, il piede destro di Amsic e la gamba destra per vedere che piega sta prendendo, e quindi per cercare di intuire il tiro. Allora, io credo che andrebbero ripetuti i calci di rigore che vengono respinti dal portiere e che poi si risolvono in maniera che chi è entrato prima in area ne trae un vantaggio davvero. Cioè ieri sera Buffon respinge, Lavezzi fa tapping, Lavezzi era entrato prima, annulli e fai ripetere il rigore, o magari non fai nemmeno ripetere il rigore perché questo è entrato prima e quindi è in posizione scorretta. Viceversa, Buffon Buffon respinge il pallone, la palla viene messa in corner da un suo difensore che è partito prima rispetto al fischio di Tagliavento, alla battuta di Hamsik, e anche in questo caso fai ripetere il rigore perché c'è stata un'irregolarità che ha fruttato qualcosa. Ma quando la irregolarità vera o presunta, ieri sera era vera comunque, non cambia la sostanza delle cose, io sinceramente non capisco le ripetizioni, se non con il fatto di farsi notare, insomma, secondo me. Prima di continuare con i vostri interventi, e vi vedo già prenotati in molti come al solito, beh, intanto Andrea, un messaggio firmato Andrea, fa notare che non era René Simons, René Simons, mi ricordo, non so se è un'attrice o qualcosa di questo genere, era Alan Simons, quell'ala del quel grande giocatore, piccolo grande giocatore del Borussia di Mönchengladbach degli anni 70, era un danese piccolo che credo vinse, io mi sbaglierò, ma vinse anche un pallone d'oro. Comunque era veramente un gran giocatore che ha anticipato in un certo senso questa stirpe, no, dei piccoletti del Barça. Un grande giocatore davvero, Alan Simons. Dicevo, prima dei vostri interventi, mi farebbe piacere farvi ascoltare quello che ha detto Tommasi, presidente dell'AIC Damiano, Tommasi, a proposito di outing sull'omosessualità nel calcio, perché è un intervento, per il mio, intelligente, di buon gusto, forse un tantinello retrodatato, no? Come, però insomma, a occhio, certo ha suscitato reazioni dure, e poi magari vi leggo anche la reazione più dura che ho letto stamane, di cui ho letto stamane sulla Gazzetta dello Sport. Prima sentiamo Tommasi. No, è un tabù nella misura in cui, insomma, c'è una convivenza tra colleghi diversa da qualsiasi altra professione. Insomma, il calciatore convive lo spogliatoio e quindi anche la sua intimità con i suoi colleghi, e quindi questo comporta anche magari difficoltà ad esprimere un'eventuale preferenza sessuale, cosa che in altri ambiti professionali, penso al giornalismo piuttosto che agli impiegati di banca, questo non accade, quindi è anche più semplice esprimere se stessi in quell'ambito. Quello che raccontano, che cioè, è ancora chiuso a questo tipo di realtà, ancora c'è dell'omertà, vorrei far capire anche a come si convive in uno spogliatoio, come si convive con una squadra, cosa vuol dire la comunicazione, cosa vuol dire raccontare la propria intimità in un ambiente dove l'intimità si condivide quotidianamente con tutti. Io ho grande stima per Damiano Tommasi, anche per la sua dialettica, e sinceramente dopo averla ascoltata faccio pur capendo che sono parole, diciamo, un po' all'antica, ecco, se vogliamo metterla in questi termini, faccio veramente un po' di fatica a capire la reazione, per esempio, di Alessandro Cecchi Paone, noto scrittore, conduttore TV, che invece outing lo fece negli anni passati, e che risponde alla domanda. C'è chi pone: come commenta l'uscita di Tommasi? Sono sgomento e ripugnato. A parte che il presidente dell'Asso Calciatori dovrebbe impegnarsi a risolvere o limitare le forme di imbarazzo di cui parla, e invece così conferma e rafforza il TV, incentiva e ufficializza la discriminazione, parla a nome dei calciatori omofobi e non si interessa dei danni, della sofferenza, del dolore che gli omosessuali sono costretti a vivere anche a causa delle sue parole. Come si può sentire, secondo domanda, un calciatore gay che ha ascoltato le parole di Tommasi, cito sempre dalla Gazzetta dello Sport di stamane, umiliato? Trovo che Tommasi sia ignorante dal punto di vista affettivo e sentimentale. Mi chiedo, ma cosa ha studiato? Nello spogliatoio i giocatori parlano di sesso, di scopate, di ragazze, di innamoramenti. Lo farebbero pure gli omosessuali se non ci fosse un qualsiasi Tommasi ad ascoltare. Per questo poi i calciatori gay sono costretti a diventarsi mogli finte, rapporti con donne creati ad hoc. Ultima domanda, serve coraggio per fare coming out nel calcio? Sì, coraggio è una buona dose di amore per la verità. Meno male che fuori dal calcio l'Italia sta evolvendo e la discriminazione è diminuita. La mia risposta a Tommasi sarà ad alti livelli. Ho un libro in uscita per i primi dell'anno, ma la roba, non cito il titolo ovviamente perché almeno questa legittima difesa lasciatemela, a me e non certamente al professor Cecchi Paone. Allora ripeto, la mia risposta a Tommasi sarà ad alti livelli. Ho un libro in uscita ai primi dell'anno, ripeto, vigliacco se cito il titolo, ma Tommasi non so se lo capirà. Non male, secondo me. Tutta la vita Tommasi, comunque. Alessandro da Firenze, buongiorno. Buongiorno. buongiorno dottor Garanzini, complimenti non solo per la trasmissione ma anche per il bellissimo libro che ha scritto alcuni anni fa relativamente al Paron Rocco, di cui a Firenze notiamo sempre grande stima e grande affetto. Io le volevo chiedere un'opinione in merito al periodo grigio della Fiorentina, dove veramente sta regnando il caos più totale, dove Corvino ha sbagliato sicuramente a fare mercato, dove anche gli stessi De Vallavalle mi sembra che ultimamente non siano molto vicini alla squadra. Forse è arrivato tardivo l'arrivo di De Rossi, che sicuramente ha molte più cartucce da sparare rispetto a Mihajlovic, però obiettivamente non la vedo così bene questa squadra, perché vedo molti giocatori veramente senza i cosiddetti, e ci vorrebbe gente come potevano essere Passarella, Dunga e lo stesso Iachini, che tanti anni fa ci aiutò a rimanere a galla per tante cose. Volevo una sua opinione in merito e la saluto. Buona giornata. Buona giornata a lei, Alessandro. La mia opinione è che Delio Rossi ha atteso un lavoro abbastanza serio, perché basta guardare la classifica, la Fiorentina non è tanto ben combinata di punti di vantaggio sulla zona, mi veniva da dire outing, sulla zona out ne ha pochi, e mi pare non più di tre, e quindi insomma, con una, le squadre in fondo si sono mosse, a cominciare al Cesena, e come, e quindi o comincia a svegliarsi anche la Fiorentina grazie anche alla cura di Delio Rossi, e se no è una di quelle annate in cui si rischia di soffrire. Sì, mi conferma Franco Piantarida, che ricordavo bene, che Alan Simons vinse il pallone d'oro nel 77, proprio, direi proprio l'anno dopo, l'anno successivo alla conquista della Coppa Campioni da parte del Borussia di Mönchengladbach, mentre René Simons è una modella e un'attrice. Ragazzi, basta avere un po' di febbriciatola e non ne sbagli una, eh? Oggi forse va così. Gennaro Modena, buongiorno. Signor Garanzini, buongiorno. Io volevo dire questo: stamattina ho letto sul giornale, su Corriere, grande Juve da Leone, ma in verità io sono tifosissimo del Napoli, la Juve ha giocato bene, ma perché? Perché Napoli viene da quattro partite da Champions, che poi Napoli è una squadra che gioca sempre di più il secondo tempo, ma ormai Napoli non aveva più benzina, allora più credo per il secondo tempo. La Juve ha avuto, diciamo, sta fortuna che non c'ha la Champions, non c'ha le partite, allora è riuscita a recuperare, se no secondo me loro non riuscivano a fare altri tre gol, recuperare tre gol. Lei cosa ne pensa? Gennaro, penso che il tifoso o una consolazione per la propria squadra oppure una diminuzione nei confronti della squadra altrui la trova sempre. Io però non sono, cioè, detto questo, sinceramente credo che qualche fondo di ragione lei ce l'abbia, nel senso che credo sia la prima volta nel corso dell'anno che la Juventus lascia intravedere. È vero che è vero che alla fine, come ha detto, mi pare Pepe, forse anche Conte, no? Questi sono pareggi che sanno di vittoria, così come il pareggio del Napoli sa certamente di sconfitta, e fin lì non ci sono dubbi. Però è anche vero che è la prima volta che vedo delle crepe sostanziali nel gioco della Juventus, ma anche non solo nel sistema difensivo, che quello lì me l'aspettavo, ma anche proprio nel strutturalmente per quanto riguarda tutta la squadra, perché una squadra, una capolista che oltretutto ha appena vinto sul campo della Lazio, va a giocare su un campo ancora più difficile, perché il Napoli in casa, al di là dei punti di classifica, è molto più forte di quanto non sia in casa la Lazio, che la Lazio i punti li fa fuori a differenza del Napoli, quindi ci sta che vai sotto, però ci sta che vai sotto, intanto ci vai una volta e poi ci rivai ancora nel secondo tempo, hai una grande forza di reazione finale, e questa non so come dire, non è una novità stagionale, perché il temperamento, la facilità di corsa, la grande preparazione atletica, il coraggio di non mollare mai della Juve sono doti che conoscevamo già in questi tre mesi, che avevamo già visto. Il fatto invece di andare sotto con quella facilità e con quegli errori difensivi non l'avevamo ancora visto, e quindi questo potrebbe essere una piccolissima crepa. Guidolin, perché Guidolin? Perché stasera l'Udinese gioca a Rennes in Europa League, domani sera toccherà alla Lazio, e quindi per, insomma, non per par condicio, ma perché perché è giusto documentare anche, anche la, la seconda delle, delle coppe europee, quindi la vigilia di Guidolin. Da mezzo domani due. Just un point, donc la question c'est est-ce qu'il met... Beh, è un po' specifico, sì, sì. Una punta e mezza vorrebbe dire solo un attaccante è un numero 10 o due attaccanti, il veut savoir, ma je dis pas che è la verità. È un spettacolo questo. non ho deciso, deciderò fra stasera domani. Beh, insomma, è talmente sempre serioso Guidolin che un pezzettino davanti spettacolo ha fatto bene Franco Piantanida a, a inserirlo. Meglio un Tommasi ignorante che Cecchi Paone, scrive Claudio, ma guardi, su questo non c'è il minimo dubbio, però Valerio scrive invece tutta la vita Cecchi Paone. Va bene, mi immagino di capire che ci sia un senso particolare in questa frase. Non, questo mi sembra uno di quei terreni minati particolarmente scivolosi che insomma, forse è meglio, come dire, abbandonare, ma mi sembrava interessante però quel carteggio, anche perché trovo da una parte, non so come dire, mentre uno si aspetta da Alessandro Cecchi Paone un contributo intellettuale, no, al problema, e invece trova il contributo burino proprio da quello che dovrebbe essere l'intellettuale, ma burino vero, insisto, e invece trova lo sforzo di, non dico l'intellettualità, ma lo sforzo di capire e lo sforzo di approfondire il problema, magari in modo sbagliato, non dico di no, da parte di Tommasi, che sarebbe il muscolare, che sarebbe comunque il contraltare dell'intellettuale. Per questo mi era sembrato molto, ma molto interessante quel confronto scontro. Silvio ha chiamato da Torino, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, due piccole cose. La prima riguarda il Napoli, che con tutto il rispetto io gli faccio veramente molti auguri in Champions. Essendo juventino, onestamente forse la squadra italiana per cui ti farò di più. Però voglio ricordare che Juventus, Milan e ahimè la stessa Inter hanno fatto strada in campionato in Champions nel medesimo anno, quindi probabilmente, come avrete già anche probabilmente detto prima, io non ho ascoltato tutta la trasmissione, non ha una rosa completa. Seconda cosa, il Borussia, una precisazione, il Borussia Mönchengladbach non ha mai vinto la Champions. Nel 77 perse a Roma contro il Liverpool 3-1, lo so perché faccio un po' di pubblicità su Buteo, io usavo il Borussia Mönchengladbach giocando a Subbuteo. È vero, la perse quella finale, ha ragione, adesso che lo dice ha ragione. Perse la finale contro il Liverpool giocata all'Olimpico, è vero, ricordavo male una grande squadra che per due anni diede spettacoli in Europa, ma non riuscì a vincerla la Coppa Campioni perché si scontrò con un grande Liverpool, quello che c'era allora. Verissimo, grazie Silvio. Personalmente sto notando, scrive Marione Scalieri Trezzano sul Naviglio, mail appena arrivata, che il fatto di far ripetere un rigore perché troppi giocatori anticipano l'ingresso in area sta diventando una norma e che il tutto non viene svolto seguendo una regola ma la discrezionalità arbitrale. Secondo lei non sarebbe opportuno, anche per fare un po' di chiarezza, eliminare la possibilità di ribattuta, nel senso che dopo il calcio di rigore non ci può più essere continuità dell'azione, ma si riprenderebbe da centrocampo nel caso il rigore venga segnato o da rimessa da fondo in caso contrario. Quindi praticamente lei dice il calcio di rigore com'è nei calci di rigore di spareggio, no? Nei calci di rigore finale, conclusivi, quando l'importante è che il portiere tocchi il pallone, cioè fermi il pallone, respinga, devi il pallone e poi non c'è più possibilità di giocarlo o di ribatterlo a rete. Non lo so, può essere, anche questa può essere un'idea. Io trovo che la formula attuale vada bene, trovo che non sia il caso di far ripetere un rigore se uno ne ricava, cioè c'era un rigore che andava ripetuto quest'anno in campionato, se non ricordo male, che era quello battuto dal Napoli a San Siro contro l'Inter, perché in quel caso non so più se è Aronica o Campagnaro che fa gol, forse Campagnaro, che entra palesemente prima in area e sulla parata del portiere dell'Inter fa il tapping e fa gol. Ecco, quello è un rigore da fare, un gol da annullare o un rigore da far ripetere, poi io forse non conosco nemmeno bene il regolamento, ma chi se ne frega, intendo dire che lì c'è davvero l'irregolarità che diventa sostanza, mentre non c'è quando il pallone fila direttamente in rete e pazienza se uno o due giocatori dell'uno o dell'altra squadra sono entrati in area prima, l'importante è che non vadano a sgambettare o a spingere o a sputare sul collo di quello che sta battendo, insomma, no. Vabbè. Paolo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Proprio a proposito di quello di cui stava parlando, dico che è strano che Tagliavento faccia il fenomeno ieri sera e non l'ha fatto in occasione di Inter-Napoli, perché mi sembra di ricordare che fosse proprio Tagliavento l'arbitro. Comunque, al di là di questo, secondo me Mazzarri ha sbagliato a far ritirare il rigore ad Hamsik, perché ha talmente festeggiato in maniera giustamente emotiva, ha sceso le scalette, ha parlato col magazziniere, forse ha telefonato anche alla moglie, non lo so, che la carica nervosa a quel punto, a mio avviso, era completamente esaurita. Esatto. Tant'è che ero con degli amici e ho detto, vuoi vedere questa sbaglia? E tale è stato, non per portar sfiga, per carità, anche perché sono anti-juventino. Poi velocemente due cose: se René Simonsen faceva dalla destra, centravanti chi era? Caro Alto in quella squadra? Sì, appunto, no, era Alan Simonsen, l'abbiamo già corretto. Non lo so. E poi un'ultima cosa, mi consenta, l'altro giorno ho sentito una cosa obbrobriosa, paragonare vagamente Caressa a livello di neologismi con Gianni Brera, cioè per cortesia non scherziamo, insomma. Non ero io. No, lei ecco. Ascoltava, insomma, io qua, qualcuno che gliel'ha detto. Io provo a smistare il traffico, provo a fare da semaforo, da crocevia, provo ogni tanto a correggere cautamente, non voglio, mi sforzo di non mancare di rispetto a nessuno, e certamente non volevo mancare, dicendo questo, nessuno vuol mancare di rispetto a Caressa. Stiamo parlando di due specialità diverse: uno fa il telecronista, e io dubito, e lo fa bene, e dubito che Brera avrebbe saputo fare il telecronista bene come lo fa Caressa, anche se tra l'altro per un problema di velocità di parola, no? Di scilinguagnolo, di capacità di sottolineatura verbale, da una parte. Dall'altra, insomma, l'abisso, immagino l'abisso di scrittura che separa, io non dico chiunque, ma forse chiunque, diciamo pure chiunque, da Brera è tale che paragoni di questo genere non so proprio come possano stare in piedi. In ogni caso, Inter-Napoli, mi informa sempre Franco Piantanita, perché la mia memoria non arriva nemmeno alle partite dell'altra sera, non era stata diretta da Tagliavento ma da Rocchi, e quindi e adesso che me lo scrive torna in mente, anche perché Rocchi quella sera ne combinò veramente di ogni. E Rocchi è un arbitro davvero mediocre in assoluto a parer mio, mentre Tagliavento mi sembrava strano che avesse fatto un errore di questo genere. Vogliamo sentire che cosa ha trovato Nicola Filippone per la giornata del 30 novembre? Sembra ieri. 30 novembre 1983. A 16 anni e mezzo Roberto Baggio realizza la prima rete tra i professionisti. Il giovane talento del Vicenza va a segno in casa del Legnano nei supplementari di una gara di Coppa Italia di Serie C, vinta dai Veneti per 4-1. A dare fiducia al ragazzo è il tecnico Bruno Giorgi. I due si ritroveranno a Firenze nella stagione 1989-90, quella della definitiva consacrazione di Baggio. Nella sua carriera, il fuoriclasse vicentino ha siglato 318 gol ufficiali, tra cui 205 in Serie A, 31 nelle Coppe Europee e 27 in Nazionale. Bravo Nicola. Filippone, grazie. Andiamo a Palermo da Francesco. Buongiorno. Francesco, ultimo appello. Buongiorno, dottore Garanzini, buongiorno. Pronto? Francesco, c'è qualcuno che la sta ascoltando? Volevo sapere una sua opinione. Come sera, vedendomi Napoli-Juventus, tutti i colleghi delle tv private hanno detto che grande partita, ma io vedendo giocare quella partita, vedendo Bonucci, e per me un giocatore di, non so, la campionata di Serie C come giocatore di sera, poi non mi permetterei. Come si fa a dire grande partita quando ho visto delle difese e dei gol da ridere, secondo me? Qual è la sua opinione? È un'opinione breriana questa, no? Perché in effetti nel calcio non c'è soltanto la fase offensiva, c'è anche l'altra. Allora, ieri sera la fase offensiva è stata recitata, interpretata in maniera abbastanza brillante, la fase difensiva dall'una e dall'altra parte, individualmente e collettivamente, è stata abbastanza discutibile. Su questo ci sono pochi dubbi. Salvatore ha chiamato la Napoli, buongiorno. A lei, senza parlare del fatto che parecchi tifosi del Napoli stanno dicendo che praticamente hanno qualche pareggiato perché, diciamo, il Napoli era stanco, ma io voglio ribattere che per fare la Champions League ci vogliono, ci vuole una rosa che possa supportare entrambe le cose, quindi trovare la scusante perché facciamo la Champions League mi sembra una cosa del tutto fuori luogo. E poi voglio dire che nello specifico Pirlo ha fatto quest'anno 18 partite, Cannavaro ne ha fatte appena 15, quindi penso che fondamentalmente non è una scusa valida, quindi sarebbe meglio che trovassero altre motivazioni. Vorrei sapere il suo pensiero. Ma insomma, il mio pensiero è che se Napoli comincia ad avvertire un pochino di usura in questa fase è abbastanza normale, perché le partite vanno anche pesate, e il Napoli ne ha giocate pesate nel senso dell'impegno, nel senso dell'altezza dell'ostacolo che hai di fronte. Il Napoli ha giocato due partite contro il Bayern, ha giocato due partite contro il City, ma partite decisive, partite in cui i punti sono punti appunto determinanti per superare o meno il turno, e non è mica finito, perché deve ancora giocarsi quella di Villarreal la settimana prossima, che non credo sarà una passeggiata, nel senso che mi auguro che Villarreal giochi seriamente come è giusto giocare, poi mi auguro anche che vinca il Napoli, ma non certamente come comincio a sentire a intuire dalle parole del professor De Laurentiis, non certamente che gli spagnoli debbano mettersi a 90 gradi semplicemente perché sono a 0 punti e hanno già perso i loro obiettivi, a proposito di Cecchi Paone, no? Quindi non direi proprio che andrà così. Sarà un impegno tosto. Pietro Lacorte in regia, Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.